La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. Questa sera, nella prima parte del programma, parleremo del ruolo che hanno avuto i libri nella storia, dal Principe di Machiavelli al Mein Kampf di Hitler. Poi proseguiremo il nostro viaggio lungo la Cortina di Ferro con il quarto reportage della serie che ci accompagna sino all'anniversario della caduta del Muro di Berlino. E infine ascolteremo in collaborazione con History Channel un radiodocumentario sulla Battaglia delle Somme del 1916, una delle più grandi battaglie della Prima Guerra Mondiale. Iniziamo subito con l'approfondimento di Dino Pesole. Il 10 maggio del 1933 Berlino fu teatro di una manifestazione, definita spontanea dai gerarchi nazisti, in realtà organizzata in tutti i suoi particolari, una manifestazione tra le più violente della storia del nazionalsocialismo. A finire nel rogo furono migliaia di libri, ritenuti contrari allo spirito tedesco. I libri e la storia. Se ne è discusso a Torino dal 21 al 25 ottobre nel corso della quinta edizione di Festival Storia, la rassegna annuale internazionale ideata e diretta da Angelo Dorsi. Vi sono libri che hanno fatto la storia, affermano gli organizzatori della rassegna, nel bene e nel male. Si pensi al Principe di Machiavelli, ma anche al Mein Kampf di Hitler. Nel corso dei millenni sono stati numerosi i casi di bibliocastia, il furore che si è abbattuto contro i libri, nel tentativo di distruggerli non solo fisicamente, ma per stroncare il loro contenuto culturale, sociale e politico. Avvenne in Cina nel III secolo a.C., nel corso del Medioevo a opera dell'Inquisizione, avvenne in Spagna dopo la distruzione dell'impero azzeco. Ed è proprio quel che avvenne la notte del 10 maggio del 1933 all'Opernplatz di Berlino. Fu un gigantesco rogo di libri giudicati non tedeschi, organizzato dall'Associazione Generale degli Studenti e dai nazisti. Libri di autori del calibro di Thomas e Heinrich Mann, Heine, Brecht e Freud, oltre che di Marx, Fromm, Husserl. Una gigantesca croce uncinata era stata collocata nella tribuna dalla quale venivano lanciati nelle fiamme migliaia di libri. Anche il ministro nazista della propaganda, il potente Joseph Goebbels, prese parte attiva al rogo. L'evento assunse i caratteri di una cerimonia ufficiale, quasi religiosa. Furono curati gli aspetti scenici, le musiche, i canti, l'illuminazione, ma anche il rituale che si ricollegava alla tradizione delle corporazioni studentesche. Professori in toga, studenti, soldati delle SA e delle SS si alternarono alla tribuna per dare alle fiamme i libri di autori inseriti nelle liste nere, trasportati da camion, cosparsi di benzina e arsi con l'aiuto di tecnici e pompieri. Questo è il discorso che Goebbels pronunciò nella notte del rogo. Studenti, uomini e donne tedesche, l'era dell'esagerato intellettualismo ebraico è giunto alla fine. Il trionfo della rivoluzione tedesca ha chiarito quale sia la strada della Germania e il futuro uomo tedesco non sarà un uomo di libri, ma piuttosto un uomo di carattere. Ed è in tale prospettiva e con tale scopo che vogliamo educarvi. Vogliamo educare i giovani ad avere il coraggio di guardare direttamente gli occhi impietosi della vita. Vogliamo educare i giovani a ripudiare la paura della morte allo scopo di condurli a rispettare la morte. Questa è la missione del giovane e pertanto fate bene in quest'ora solenne a gettare nelle fiamme la spazzatura intellettuale del passato. È un'impresa forte, grande e simbolica. Un'impresa che proverà al mondo intero che le basi intellettuali della Repubblica di Novembre si sono sgretolate, ma anche che dalle loro rovine sorgerà vittorioso il padrone di un nuovo spirito. Gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkrieges. Für Erziehung des Volkes im Geiste der Wehrhaftigkeit. Abbiamo in linea Angelo Dorsi, che è, come dicevamo poc'anzi, l'ideatore e il direttore di questa interessante rassegna Festival Storia che si è tenuta a Torino. Il professor Dorsi insegna storia del pensiero politico ed è autore di diversi libri, l'ultimo dei quali si intitola 1989, del come la storia è cambiata, ma in peggio, edito da Ponte alle Grazie. Professore, grazie prima di tutto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermelo rivolto. Ci parli un po' di questa rassegna, il libro e la storia. Voi appunto parlate dei libri che hanno fatto la storia nel bene e nel male, Il principe di Machiavelli, ma anche Il Mein Kampf di Hitler. Sì, diciamo, allora, questa intanto è la quinta edizione di Festival Storia, manifestazione di public history, di storia dedicata al pubblico, che cerca di coniugare rigore ma anche comprensibilità, cioè non è per specialisti ma va bene anche per gli specialisti. E la quinta edizione l'ho intitolata Il potere del libro, sottotitolo Il potere contro i libri ma anche i libri contro il potere. L'idea di fondo è che ci sono appunto, i libri possono essere soggetti della storia e l'abbiamo esaminato nel corso di 5 giorni che, durante i quali abbiamo svolto il festival, 3 giorni a Torino e 2 giorni provincia di Cuneo, Saluzzo e Savigliano, 2 cittadine rinascimentali, diciamo, abbiamo affrontato tutta una serie di tematiche legate al libro, appunto libri che hanno fatto la storia nel bene e nel male, come ricordava lei, e quindi per esempio sono riuscito a mettere in programma anche il Mein Kampf, benché qualcuno dello staff storcesse il naso, perché io ritengo che dobbiamo parlare di questi libri. Il Mein Kampf è indubbio che abbia fatto la storia, abbia segnato funestamente la storia del XX secolo, e forse ahimè ancora le sue propaggini arrivano anche al secolo XXI, e quindi abbiamo affrontato con lezioni monografiche, con dibattiti a due, con incontri triadici, ma anche con mostre, con spettacoli, come sempre l'idea di divertire con la storia, divertire in senso nobile, abbiamo affrontato una serie di nodi che hanno a che fare non solo con alcuni libri cruciali, appunto il Mein Kampf, ma il Principe di Machiavelli, che abbiamo presentato come un libro bilaterale, perché è un libro che può essere uno strumento del potere, ma anche uno strumento di contropotere, cioè un libro che da una parte può essere utile ai governanti per esercitare il loro magistero di gestore del potere, ma può essere anche utile ai popoli per disvelare di che lacrime e sangue grondi il potere. Però abbiamo parlato anche per esempio del Manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, certo. Un libro che ha dato vita al più grande movimento di massa della storia. Certo. Abbiamo affrontato anche il tema delle religioni del libro, cosiddette religioni del libro, quindi ebraismo, cristianesimo e islam. Abbiamo affrontato però anche esempi, i terribili esempi della biblioclastia, cioè il furore distruggitore dei libri. Ecco, a questo proposito, professore, noi abbiamo parlato poc'anzi di uno dei casi più clamorosi di biblioclastia, cioè il rogo di Berlino del 10 maggio del 1933. Avete affrontato anche voi questo tema? Certamente, abbiamo dedicato un incontro specifico a questo tema. Ovviamente perché questo era un punto ineludibile, così come era un punto ineludibile per dire la proiezione commentata di Fahrenheit 451 di Truffaut, tratto dal romanzo di Bradbury, nel senso che la distruzione dei libri è un elemento costante nella storia che si svolge attraverso modalità diverse, che possono essere tecnicamente il fuoco, classicamente perché il fuoco è anche simbolicamente più potente, ma possono essere mille altre forme. Oppure abbiamo affrontato il tema della biblioclastia che passa attraverso la censura, e quindi abbiamo affrontato vari esempi di censura che colpisce i libri prima ancora che siano stampati o dopo che sono stampati. Vorrei ricordare che questo tema della biblioclastia è tornato, ahimè, di drammatica evidenza e presentissimo nella nostra contemporaneità in Iraq. In Iraq abbiamo assistito nell'aprile 2003, quindi nel momento in cui sono entrate le truppe americane, anche americane e in parte poi anche della coalizione, ma soprattutto anche americane, sono entrate a Baghdad, abbiamo assistito, era il 10 aprile del 2003, abbiamo assistito a uno degli esempi più spaventosi di furore distruggitore dei libri e in generale dei reperti del passato, reperti archeologici, documenti. La biblioteca di Baghdad è stata praticamente semidistrutta, così come è stato semidistrutto il museo archeologico di Baghdad, uno dei luoghi dove venivano conservati gli elementi, i pezzi più antichi della storia dell'umanità, perché noi siamo in una zona, la Mesopotamia, che è stata la culla dell'umanità. Ebbene, dico 70 anni dopo il rogo dei libri abbiamo assistito a un altro esempio funesto di bibliocastia, quindi è un tema che drammaticamente di attualità, quello del furore distruggitore dei libri. La storia e la memoria torna tra poco. La storia e la memoria. Ben ritrovati alla Storia e la memoria. A una settimana da quel 9 novembre di 20 anni fa in cui cadde il muro che separava Berlino Est da Berlino Ovest, questa settimana ascoltiamo la testimonianza di due uomini che hanno vissuto da vicino quel momento, Ingo Schulz e Andreas Dresden. Nati nella DDR, lo scrittore e il regista di fama internazionale raccontano dubbi e perplessità sull'incontro tra due Germanie troppo diverse tra loro avvenuto dopo la caduta del muro di Berlino. Andreas Dresden e Ingo Schulz sono per la loro storia e spirito di osservazione due punti di riferimento nel mondo degli intellettuali della Germania riunificata. Entrambi, nati nell'ex Repubblica Democratica Tedesca, sfioravano i 30 anni nel 1989. Tanto Dresden nei suoi film quanto Schulz nei suoi romanzi pennellano senza ricorrere mai a trucchi la vita dei loro personaggi nella quotidianità che scorre lenta. Abbiamo incontrato Schulz e Dresden in giorni e luoghi diversi, il primo negli uffici della sua casa editrice, la Berlin Verlag, il secondo, Dresden, nella magnifica Potsdam, dove il regista abita. Partiamo subito dal nocciolo della questione. Dopo 20 anni di vita comune, possiamo dire Germania riunificata, missione compiuta? Ingo Schulz. The problem is that we have no unification or reunification. The correct term, the official term is that we had a so-called. Sono in molti quelli dell'Est a credere che non si possa parlare di Wiedervereinigung, di riunificazione. Tecnicamente si è trattato di una Beitritt, dell'adesione della Repubblica Democratica Tedesca a quella federale. Che cosa vuol dire riunificazione? Mescolanza, scambio tra le due parti. Non c'è stato nulla di tutto questo, anzi. Le differenze si sono rimarcate. Prima della caduta del muro, tedeschi eravamo noi e tedeschi erano anche quelli della Germania federale. Si è cominciata a fare distinzione tra i due popoli, paradossalmente, proprio dopo la Wende, quando noi ci siamo accorti di essere diversi e abbiamo iniziato a riferirci a noi stessi come Ossi, tedeschi dell'Est. Andreas Dresden. Our country anymore, nobody knew that, but when the process. Ma d'altra parte nessuno prima di quel 9 novembre pensava che avrebbe preso una parte della loro biografia, che la loro nazione, la DDR, sarebbe scomparsa dalle cartine. Alla contestazione mossa che i tedeschi ballavano davanti alla porta di Brandeburgo cantando «Noi siamo un solo popolo», Andreas Dresden risponde così. Questo accadeva solo dopo però, durante le manifestazioni del lunedì, che ebbero inizio a Lipsia il 4 settembre, per poi diffondersi in tutte le altre città. La gente gridava «Wir sind das Volk», «Noi siamo il popolo». Le persone scesero in strada per chiedere più libertà e l'apertura dei confini. Volevano poter acquistare le cose e i prodotti che vendevano nei film occidentali. Sottolineavano che in una democrazia è il popolo che deve avere il potere e non un'oligarchia di idioti chiusi in un palazzo. D'altro canto, i tedeschi della Germania democratica erano abituati nel regime socialista a una varietà di diritti personali che oggi sono ben lontani dal potersi dire conquistati. Ingo Schulz. La scomparsa della DDR non era nei pensieri di nessuno, anche perché preso al netto di quelle persone idiote che avevano isolato il popolo dal mondo occidentale, il sistema socialista aveva molti pregi. Il sistema sanitario, l'educazione, i trasporti, che per il 70% si sviluppavano su rotaia. Il diritto al lavoro era qualcosa di concreto e non un'astrazione come lo è oggi nel sistema occidentale. E che dire poi del diritto di famiglia? Nella Repubblica Federale il divorzio è stato inquadrato nella legislazione solo dopo il 76. I miei genitori si separarono molti anni prima e ancora oggi mia madre mi dice di essere stata fortunata a trovarsi nella DDR. altrimenti avrebbe dovuto sopportare mio padre per molti anni ancora. It needs time to get knowledge about the new system. And the funny thing is we have the name for the people from the former. Non fraintendermi, non sto dicendo che la DDR fosse il sistema perfetto. Siamo tutti d'accordo nel dire che quel sistema si basava su una dittatura liberticida e nessuno vuole tornare indietro. Mettiamola così. Non ritengo una grave perdita lo sgretolamento del blocco orientale, ma è quantomeno criticabile la scelta dell'Occidente di voler cancellare tutto quello che fosse della DDR, anche le cose buone. Non esiste uguaglianza se non c'è giustizia sociale e non c'è dignità per un uomo che non sia posto nelle condizioni di poter lavorare. Sai a quanto ammonta il sussidio che il governo passa ai disoccupati? 4,25 euro al giorno. Ora, se prendi il treno da Berlino Centro alla periferia, il biglietto ti costa 2,10 euro all'andata e altrettanti al ritorno. Ti rimangono 5 centesimi. Ci compri la libertà? Possiamo dire che queste persone sono libere? Dresden e Schulz non mandano giù l'idea che, nell'ottica della Germania Unita, tutto quello che era figlio della DDR è stato scartato a priori dal nuovo sistema. Era quello federale che doveva fare da riferimento e modello anche per i tedeschi che per 40 anni di fila avevano vissuto con tutt'altre filosofie. Ingo Schulz. Era questo che intendevo. Se le due parti si fossero incontrate a mezza strada, forse stasera qui parleremo in maniera diversa. Ma come dicevo prima, ci siamo trovati di fronte a un'assimilazione. Il grande che ha inglobato il piccolo. Andreas Dresen. So che è brutto dirlo, ma è come se la DDR fosse stata invasa dalla Repubblica Federale. Schulz condivide l'osservazione di chi gli fa notare che tutto sommato i tedeschi della DDR volevano tuffarsi dalla testa ai piedi nel sistema occidentale. Sì, di quell'Occidente che vedevamo in televisione. La verità è che il crollo del sistema socialista ha avuto degli effetti devastanti, anche nel cosiddetto mondo libero. Dopo il 1990 l'Occidente ha subito un brusco arresto nello sviluppo. In un attimo sono svaniti tutti i risultati guadagnati in 200 anni di storia. Le lotte in Inghilterra, a Manchester, i valori che si riconoscevano nell'illuminismo, tutto al vento. In nome della competitività, le politiche sociali sono state sacrificate sull'altare del capitale. Per rimanere in gara i governi non possono che tagliare, tagliare e tagliare ancora. Cos'è la crisi economica di questi anni se non l'espressione più pura di questa competitività folle? I politici ti parlano di libertà e democrazia per nascondere questi che sono i grandi problemi che dobbiamo affrontare. Questa finirà, è vero, passerà, ma le crisi si susseguono. Appena esci fuori da una, puoi intravedere subito un'altra all'orizzonte. Sembra che ci si sia dimenticati del fatto che esiste un'alternativa a questo sistema di vita. Ma ditemi come immaginate le vostre vite all'interno di una DDR sopravvissuta alle spallate della società tedesca e alla voglia di libertà. Ingo Schulz. Scusa se rido alla tua domanda, non offenderti, ma è come se mi avessi chiesto: Ingo, cosa avresti fatto nella vita se fossi nato sulla Luna? Non lo so, probabilmente avrei continuato a lavorare nel teatro, quello che facevo prima. Piccole sceneggiature, monologhi. In effetti io esisto come scrittore proprio dal 1990. What would you do when you live on the moon? E oggi The New Yorker annovera il nome di Schulz tra i migliori romanzieri del nostro tempo. E la carriera di Dresden come sarebbe stata? Looking back from this point of my life, I think it was a lucky moment to me, because avrei fatto comunque il regista. I got my Nel 1990 mi sono diplomato alla scuola di cinema di Babelsberg e i miei film sarebbero stati prodotti dalla DEFA, la casa di produzione statale. Si può immaginare quanta libertà di espressione avrebbe avuto. Il partito lo avrebbe precettato per qualche film di propaganda. La censura sarebbe stata il suo più valido collaboratore. E a quest'ora i premi ricevuti ai festival internazionali, Cannes incluso, sarebbero stati giusto un sogno. Andreas Dresen. Questo è un vecchio cliché sulla DDR e sull'intera produzione artistica e letteraria. Io cominciai la scuola nel 1986, quando alla direzione c'era Lothar Bisky, un personaggio straordinario. Era un uomo di partito, è vero, però era un riformatore. Portò all'interno della scuola i concetti di glasnost e perestroika. Ci spingeva a esprimerci liberamente e ha sempre protetto i suoi allievi e i suoi film. Non contesto che dalla DEFA uscissero molti film di propaganda, ma altrettanti erano veri e propri capolavori. Molti registi, di comprovata onestà intellettuale, si sono visti stroncare la loro carriera dopo la caduta del muro e non hanno più lavorato. All'Ovest, i film del nostro mondo non interessavano. Ingo Schulze, nel suo romanzo Vite Nuove, contestualizza la storia nel 1990, l'anno del cambiamento, riuscendo a concretizzare la virata che c'è stata nell'ideologia e nel sistema economico. C'è un esempio che può rendere molto bene l'idea. Prima del 1989 potevi liberamente criticare il tuo datore di lavoro, ma non potevi dire assolutamente nulla contro il partito. Oggi puoi dire ogni sconcezza rivolta ai membri del governo, ma nulla contro il tuo capo ufficio, a meno che non ti sia stancato del tuo lavoro. Avete ascoltato La riunificazione imperfetta, la quarta puntata de I diari della Cortina di Ferro, il viaggio di avvicinamento all'anniversario della caduta del muro di Berlino. Nicola Sessa ha curato testi e sonori e la regia e montaggio sono di Angelo Miotto. Ora gli aggiornamenti sul traffico. Restate con noi. La storia e la memoria. Ben ritrovati alla Storia e la Memoria. Inizia tra poco il radiodocumentario sulla Battaglia delle Somme del 1916, una delle più grandi battaglie della Prima Guerra Mondiale, ricordata soprattutto per il suo primo giorno, il 1 luglio 1916, il più sanguinoso nella storia dell'esercito britannico. Vi segnaliamo che il documentario è distribuito da BBC e che potrete vedere la versione integrale del documentario su History Channel domenica 2 novembre alle 4:40. Primo luglio 1916, 7:30 del mattino. Per migliaia di soldati è l'ora zero. Aspettano questo momento da mesi. Dopo un devastante bombardamento contro le linee tedesche, i soldati sono convinti di andare incontro ad una facile vittoria. L'attacco avrebbe dovuto sopraffare i tedeschi. Invece, provoca un'ecatombe senza precedenti. In una sola giornata, 60.000 soldati inglesi vengono uccisi o feriti. È uno dei giorni peggiori nella storia militare inglese. Per quale motivo il primo giorno della battaglia della Somme è degenerato in un tale disastro? Nel 1916 il fronte occidentale della Prima Guerra Mondiale si trasforma in una guerra di trincea. Le linee del fronte sono demarcate da trincee e filo spinato che percorrono il continente dal Mediterraneo al Mare del Nord. È una situazione di stallo, ma il tempo gioca a favore dei tedeschi. Gli alleati degli inglesi sono sottoposti alla pressione dei continui attacchi tedeschi e la città di Verdun rischia di cadere nelle mani del nemico. La zona scelta per sferrare un attacco è una provincia francese situata in aperta campagna, la Somme. Per sferrare l'offensiva sulla Somme, i comandanti britannici preparano un'armata di enormi proporzioni. Durante il primo giorno vengono impiegati 150.000 soldati di fanteria. L'attacco è preceduto da un terrificante bombardamento volto a scardinare le difese trincerate dei tedeschi. La mattina del 1° luglio, le truppe inglesi escono dalle trincee convinte di aver eliminato ogni resistenza. Ma le difese tedesche sono pressoché intatte. La massiccia operazione di bombardamento è stata inutile. Ma perché? 90 anni dopo, i campi di battaglia della Somme custodiscono gli indizi per capire che cosa allora non funzionò. Si stima che più di un terzo dei proiettili lanciati dagli inglesi durante la battaglia della Somme non esplose. Le armi non riescono ad aprire un varco attraverso gli sbarramenti della difesa tedesca. A quale tipo di arma si sarebbe dovuto ricorrere per distruggere le difese tedesche? Gli attacchi del primo giorno sulla Somme vengono respinti. L'artiglieria inglese non riesce a scardinare le barriere di filo spinato. È evidente che l'artiglieria britannica ha usato le granate sbagliate. La colpa di questo gravoso incidente è da imputare ai generali inglesi. Essi si aspettano battaglie di movimento in terreni aperti e preferiscono riempire i magazzini di granate a frammentazione anziché di quelle ad alto potenziale. Questo calcolo si rivelerà errato e costerà agli inglesi un prezzo altissimo. Lo scoppio di una granata in aria si è sempre rivelato molto efficace sui soldati. Per quale motivo allora non provocò ingenti perdite tra i tedeschi rifugiati nelle trincee? Allo scoppio della guerra l'utilizzo di una protezione per la testa era ritenuto superfluo, ma nel 1916 i soldati del fronte della Somme indossano tutti degli elmi di acciaio. Lo Stahlhelm, realizzato seguendo una tecnica all'avanguardia, garantisce ai tedeschi una protezione maggiore contro le granate. Ma gli avversari degli inglesi dispongono di altri mezzi di difesa in grado di contrastare efficacemente l'artiglieria nemica. I tedeschi costruiscono un gran numero di rifugi sotterranei dove poter sistemare i propri soldati. Profondi 9 metri e rinforzati con travi di legno e calcestruzzo, questi rifugi sono a prova di bomba. Si tratta di un lavoro curato nei minimi dettagli. Il geologo Peter Doyle conosce ogni angolo del fronte della Somme e della sua articolata rete di rifugi sotterranei e di trincee. La cosa interessante è vedere come i tedeschi abbiano saputo piegare le caratteristiche del territorio alle loro necessità, costruendo una rete di rifugi e trincee estremamente efficaci. A soli 90 metri dal fronte nemico, i tedeschi riescono a realizzare negli avvallamenti naturali della Somme un impressionante sistema di rifugi sotterranei. Questi ripidi pendii proteggono i tedeschi dal fuoco dell'artiglieria nemica e gli permettono di continuare a costruire indisturbati i sotterranei. I rifugi sono incredibilmente attrezzati e possono ospitare un intero battaglione che conta quasi 1.000 uomini. Gli inglesi sferrano l'attacco con cui si apre il primo giorno della battaglia della Somme, convinti che l'artiglieria abbia annientato l'esercito tedesco e che occuperanno le trincee distrutte senza trovare alcuna resistenza. Ma il bombardamento fallisce e le truppe tedesche, ben lungi dall'essere state annientate, sono pronte a combattere. I soldati inglesi non riescono a sfuggire alle incessanti raffiche delle mitragliatrici. Il pesante equipaggiamento che indossano rallenta notevolmente i loro movimenti, rendendogli impossibile la fuga. Quello che doveva essere il più clamoroso attacco dell'esercito britannico si trasforma in un massacro. La battaglia della Somme rappresenta un momento cruciale per l'esercito britannico e per l'intera struttura delle sue forze armate. Nel 1918, 2 anni dopo il primo giorno di battaglia sulla Somme, le forze armate britanniche riescono a sconfiggere la Germania e a vincere la guerra. Gli Gli errori che decretarono il fallimento di quella tragica giornata non si sono più ripetuti. L'artiglieria subisce importanti cambiamenti e il problema della carenza di armi pesanti e di personale specializzato viene progressivamente risolto. Gli artiglieri vengono muniti di granate ad alto potenziale e di avanzati fusibili esplosivi che esplodono al contatto col filo spinato. Le strategie belliche vengono stravolte e integrate con le tattiche francesi di infiltrazione. Nei giorni successivi al 1 luglio vengono date disposizioni che riducono il peso dell'equipaggiamento portato dai soldati in prima linea e affidano agli altri il compito di trasportare i carichi pesanti. Le vittorie riportate dagli eserciti tedeschi convincono le unità militari britanniche dell'importanza di avere con sé la maggior quantità di mitragliatrici possibile. Le nuove reclute vengono addestrate con più cura. Il risultato è una milizia composta da unità di numero inferiore, ma molto più esperte. Nel 1916, più di un milione di inglesi, francesi e tedeschi perdono la vita sulla Somme. 80.000 corpi non sono mai stati ritrovati. La battaglia della Somme resta uno degli eventi più tragici della storia. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel domenica 2 novembre alle 4.40. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Manuela Sicuro. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.